Giovani talenti. Giovani talenti di Sergio Nava. Perché se ne sono andati? Perché sta di fatto il tipo di formazione che raggiungono, spesso a contatto con colleghi stranieri, penso soprattutto a francesi, tedeschi, spagnoli e americani. I contatti sono tali per cui viene quasi spontaneo sia per loro chiedere a quali condizioni potrebbero andare via all'estero, sia per queste organizzazioni estere domandare loro: ma perché non venite a lavorare con noi? Hanno un mercato loro che è molto più ampio nei paesi europei, non a casa nostra. Parliamo di ingegneri e fisici. Quando lei parla di 47 scienziati emigrati dall'Enea, emigrati all'estero, a quale periodo si riferisce? Negli ultimi 2 anni. Quindi se ampliamo lo sguardo, parliamo di altre decine, forse, di giovani che hanno lasciato l'Italia. Certo. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. In apertura oggi il grido d'allarme lanciato a Radio 24 da Giovanni Lelli. L'ingegner Lelli è il commissario dell'Enea, l'Agenzia Nazionale per le Nuove Tecnologie, l'Energia e lo Sviluppo Economico Sostenibile. Dalle colonne della Corriere della Sera ha attirato l'attenzione sul prosciugamento dei fondi destinati a questo ente di ricerca strategicamente importante per l'Italia. E coi fondi se ne vanno anche gli scienziati. Su 50 formati dall'Enea nell'ultimo biennio, 47 sono emigrati all'estero. Questo è il paradigma del declino di un paese che perde copiosamente capitale umano qualificato, e la storia del protagonista della puntata di oggi si inserisce bene in questa vera e propria, lasciatecelo dire, tragedia nazionale. L'Italia è diventata come un'azienda impazzita che ha licenziato il suo dipartimento di ricerca e sviluppo, cioè la ricerca e l'imprenditoria, e ha deciso di soffocare i restanti dipendenti con prezzi altissimi che nessuno può permettersi. Secondo me una cosa che si potrebbe fare è ristabilire i fondi per la ricerca. Gianluca De Novi, 37 anni, è imprenditore nonché ricercatore alla Harvard University negli Stati Uniti. Della sua storia parleremo tra pochi minuti, ora spazio notiziario. In apertura le parole del premier Enrico Letta alla Camera. Quello generazionale non è solo un tema che riguarda il rinnovamento della classe dirigente, è questione drammatica che scontano sulla propria pelle milioni di giovani. È una ferita morale, non possono esistere generazioni perdute. Letta ha aggiunto: è un suicidio della nostra economia rinunciare a investire sui giovani. Parole arrivate quasi in contemporanea al nuovo dato in crescita della disoccupazione giovanile in Italia, 38,4% a marzo, 635.000 giovani in cerca di lavoro. Il brain drain dell'Europa del Sud, dalle Alpi alla Germania, con questo titolo il quotidiano inglese The Telegraph, ha nuovamente puntato i riflettori sull'esodo di italiani, spagnoli e greci verso economie ritenute più solide come quelle tedesca e svizzera. La dolce vita non è più così dolce, quale conseguenza di una profonda recessione, di una crescita economica praticamente trascurabile e di misure di austerità stringenti, scrive il giornalista Nick Squires, citando anche il boom di espatri dall'Italia reso noto da Giovani Talenti. 114.000 invece di spagnoli emigrati nel 2012, più 6%, mentre secondo l'Università di Salonicco oltre 120.000 professionisti greci, tra cui ingegneri, dottori e ricercatori, hanno lasciato il paese nell'ultimo triennio. E per il quotidiano tedesco Süddeutsche Zeitung, oltre 1.000 italiani si sono trasferiti lo scorso anno a Monaco di Baviera. La maggior parte ha tra i 21 e i 36 anni. Molti giovani italiani hanno paura del futuro, scrive la giornalista Elisa Britzelmaier nell'articolo Cervelli in fuga. Boom di arrivi di giovani italiani in Australia, numerosi quelli che visitano il paese oceanico con un visto di vacanza lavoro. Secondo dati del Dipartimento dell'Immigrazione, lo scorso anno sono stati 15.000. Continua a crescere parallelamente la popolazione australiana, ora a 23 milioni. Nel 2012 gli inattivi disponibili a lavorare, coloro che non hanno cercato un lavoro nelle ultime 4 settimane ma sono immediatamente disponibili all'impiego, hanno raggiunto in Italia il livello più elevato dal 2004, quasi 3 milioni, lo comunica l'Istat. Di questi 1.200.000 sono under 35, oltre 200.000 i laureati. Le donne soffrono maggiormente rispetto agli uomini. Assommando inattivi e disoccupati emerge un esercito di quasi 6 milioni di senza lavoro. Tra il 2008 e il 2011 l'occupazione dei giovani è scesa dal 24 al 19%, tra le più basse dell'Unione Europea, con 4 regioni italiane, Basilicata, Calabria, Campania e Sicilia, al top in Europa per bassa occupazione giovanile, lo rileva Legambiente. La fase peggiore della crisi finanziaria nell'Unione Europea è alle spalle, ma ad allarmare ora è la disoccupazione, soprattutto quella dei giovani, così il presidente del Consiglio Europeo, Herman Van Rompuy. L'Italia è seconda in Europa per livello di tassazione sul lavoro, 42,3%, davanti a noi solo il Belgio, lo rileva Eurostat. Salari troppo bassi per un lavoratore su due a fronte di carichi di lavoro eccessivi e contratti insoddisfacenti. Questo è il quadro che emerge dal rapporto Eurispes 2013, che fotografa il grado di soddisfazione degli italiani al lavoro. Le retribuzioni sono ritenute per niente o poco soddisfacenti dalla metà degli intervistati. Il 59% segnala difficoltà nel fare carriera. Il titolo di studio diventa inutile per il 71%. Un italiano su due pensa che per cercare fortuna occorra uscire dal paese. Arranchiamo come sistema paese nelle classifiche mondiali sull'innovazione. Secondo il Bloomberg Ranking dei 50 paesi innovativi figuriamo solo al 24esimo posto. E l'Italia naviga agli ultimi posti in Europa per gli importi delle borse di dottorato. Da noi si aggirano intorno ai 1.000 euro contro i 2.005 della Svizzera e i 2.002 della Norvegia. C'è però qualche segnale incoraggiante. Secondo i dati Istat-Cnel, se è vero che le imprese italiane si collocano al di sotto dei valori europei per spese, ricerca e sviluppo, il 54% ha introdotto innovazioni di prodotto, processo, organizzativo o di marketing, una percentuale superiore alla media comunitaria. I paesi che investono meno in ricerca vedono crescere il numero di disoccupati, lo afferma John Bell, funzionario della Commissione Europea. Per Bell, chi investe meno di un punto e mezzo di PIL in ricerca raddoppia la media dei senza lavoro rispetto a chi si avvicina al 3%. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci riporta negli Stati Uniti, terra per definizione delle opportunità, terra dove non conta chi sei o chi conosci, ma quanto realmente vali. La storia di oggi dimostra appieno questa teoria. Nome: Gianluca. Cognome: De Novi. Età: 37. Città di origine: Bernalda, provincia di Matera. Studi: ingegneria elettronica e un dottorato in robotica e ricerca operativa. Anno in cui hai lasciato l'Italia: 2010. Per andare dove? Boston. Perché? Per un periodo di visita di 6 mesi. Quale lavoro svolgi attualmente? Ricercatore, instructor, sono imprenditore. Dove? Harvard University, Massachusetts General Hospital. Tornerai? In vacanza, in futuro, chissà. Io posso ringraziare il mio paese per avermi formato e forgiato nel modo in cui sono. Peccato però che purtroppo proprio nel mio paese io non possa mettere a frutto tutto quanto ho imparato, ma almeno posso dire di averci provato. Gianluca, giovanitalenti@radio24.it, ha messo nero su bianco la maggiore, se non addirittura la più enorme contraddizione di un'Italia sprofondata da anni in una crisi sempre più profonda e strutturale. Italia che forma a caro prezzo una classe dirigente giovane, creativa, innovativa e globale, ma poi la esilia. Fate così paura a un certo tipo di Italia, un'Italia conservatrice che non vuole vedere alterati certi equilibri e un certo status quo? In Italia siamo famosi per l'attaccamento morboso alle poltrone, politiche e non. I giovani portano cambiamento e questo spaventa chi non vuole cedere il passo ai nuovi arrivati, ovviamente. Torniamo indietro nel tempo, poi torneremo su questi concetti. Torniamo a quando ti iscrivi a Ingegneria Elettronica Università di Bologna. Perché questa scelta tecnica? Semplicemente perché sin da quando ero bambino ero profondamente appassionato di elettronica e informatica e in parte grazie a mio padre che mi stimolava in questo senso. L'approccio alla vita accademica si rivela fin da subito difficile. Già durante gli studi universitari ho avuto diverse difficoltà scontrandomi con un sistema che mi faceva perdere un sacco di tempo, denunci. Quali erano queste difficoltà che non riuscivi proprio a digerire, quei meccanismi così tipicamente italiani verso cui ti sei sentito allergico? Ne esistevano diversi da delle regole abbastanza fantasiose imposte da alcuni professori che servivano a limitare l'afflusso degli studenti agli esami. E tra l'altro al danno si aggiunge la beffa, perché dopo i primi anni di studio i tuoi corsi vengono cancellati, una via crucis di perdite di tempo, la definisci, e insomma, in sintesi, cosa accade? In quale situazione kafkiana finisci? Sostanzialmente, una volta cancellati i corsi, le possibilità erano due. Una era quella di passare al nuovo ordinamento e perdere alcuni degli esami ottenuti faticosamente. L'altra possibilità era quella di concordare dei programmi, fare seguire un fai da te, perdere un sacco di tempo con professori che non rispondevano alle email. E poi c'è un altro aspetto molto italiano con cui finisci per scontrarti. Quello con cui si tarpano le ali fin dagli studi a chi prova a pensare con la propria testa, a far ragionare il proprio cervello. Quale prezzo hai dovuto pagare in Ateneo per aver cercato di introdurre un modo diverso, più libero di studiare e di pensare? La sperimentazione faceva parte del mio processo di apprendimento. A casa, in quei tempi, avevo creato un vero e proprio laboratorio. Ogni volta che studiavo qualcosa cercavo di applicarla creando cose. Quando necessario chiedevo consiglio ai professori, ma spesso questo veniva preso come una seccatura. Qualche volta era penalizzante, come se facessi quello per mettermi in mostra, non per imparare. Gianluca, ma all'estero è così? Assolutamente no. Almeno per i posti in cui sono stato io. Negli Stati Uniti c'è più libertà. Guarda, ti do un esempio. Il motto dell'MIT è imparare facendo. I professori organizzano attività extra, come competizioni o eventi, per stimolare i propri studenti a fare più di quello che fanno normalmente in aula. Per fortuna, precisiamolo, non tutti i tuoi professori erano così. Una minoranza di mosche bianche resisteva, ma il contesto generale non aiutava. Tu non demordi, raddoppi e lanci anche un tuo progetto imprenditoriale con un collega. Esattamente di cosa si trattava? All'epoca, cercando di proporre un kit per una nota storica rivista di elettronica italiana, io e mio collega decidemmo di produrci e venderci questo dispositivo. Si trattava di un guanto sensorizzato, un data glove, che veniva utilizzato per catturare i movimenti delle mani e utilizzarli per una grande varietà di applicazioni, dalla computer animation, robotica e il settore medico. Come l'hanno presa in università? Fin tanto che ero un semplice studente la cosa non dava problemi, ma appena diventai un dottorando questa cosa diventò quasi una maledizione. Mi sentivo ed ero guardato a vista come se stessi rubando qualcosa, non era ritenuto serio, mi dicevano. Il tuo progetto, intanto, una piccola azienda formata da due studenti, inizia a vendere in tutto il mondo. Sull'onda del successo inizi una nuova avventura imprenditoriale. Nel gennaio 2009, anche per contrastare gli effetti della crisi, prepari un business plan, bussi alle porte sia dei venture capital sia dell'incubatore regionale Aster. I primi sono ancora poco sviluppati nella penisola e ti fanno proposte che definisci scandalose. Perché? Non trovo altro modo di definire proposte in cui il venture capital ti chiede l'80% di un progetto imprenditoriale. Qualcun altro invece proponeva conduzioni assurde del tipo: ti faccio avere i fondi ma devi andare ad aprire l'azienda dove dico io. Ovviamente questi posti non avevano alcuna possibilità di garantire il successo al progetto d'impresa. Dal programma Aster invece i feedback sono più incoraggianti, vinci anche dei premi, ma poi il tuo progetto aziendale sulla simulazione chirurgica viene scartato dalla fase di incubazione. Questo un po' ti delude. Cosa non ti ha convinto di quella scelta? Sono rimasto profondamente deluso da Aster, considerando che hanno portato in mostra il mio progetto ovunque, in fiere e tanti altri contesti, ripetendoci che fosse il miglior progetto che avevano. Ma alla fine, quando siamo arrivati al dunque, il progetto è stato scartato perché è stato considerato troppo complicato. E oggi faccio queste cose per militari e per gli americani, purtroppo. Tra poco ci torniamo. Bisogna precisare che tu le hai provate davvero tutte per restare in Italia. Hai cominciato appunto un dottorato, l'hai accennato prima. Speravi di trovarvi quegli stimoli mai assaporati durante gli anni universitari, ma va di male e in peggio. Quanto ha pesato in negativo la tua avventura imprenditoriale? Dava fastidio che avessi altre fonti di guadagno, dovevo necessariamente essere uno studente spiantato. Non ho mai sottratto tempo o risorse alla mia attività di ricerca, quindi io sinceramente non riuscivo a capire dove fosse il mio errore. È qui che arriva la svolta, quella vera. Scegli di trascorrere l'ultimo periodo di dottorato all'estero. Uno dei tuoi advisor, con grande visione dell'università e della vita, sono ovviamente ironico, profetizza: non sei all'altezza di andare in un posto come negli Stati Uniti, soprattutto con il cappello dell'università. Pura invidia, Gianluca? Non credo si trattasse di invidia, ma semplicemente di un tentativo di farmi fare quello che qualcun altro aveva programmato per me, che sicuramente non era a vantaggio della mia carriera. Dopo una bella battaglia riuscii a spuntarli e a venire qui a Boston. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Mio Dio, quanto tempo ho buttato via! Questa è la tua prima reazione quando arrivi oltreoceano. Se posso sintetizzare con una metafora, è stato forse come passare dal Medioevo all'era industriale. Ci riassumi quanta strada hai fatto in 2 anni e mezzo tra la prestigiosissima Harvard University e il Massachusetts General Hospital? Sono arrivato qui come visiting scholar. Dopo solo 2 mesi ho ricevuto diverse proposte di restare a lavorare in diversi gruppi di ricerca. La cosa straordinaria è stato il vedere questi gruppi giocare al rialzo in termini di contratto per farmi rimanere. In così poco tempo ho fatto il postdoc, sono diventato ricercatore confermato instructor ad Harvard. Attualmente di cosa ti occupi esattamente? Seguo progetti di robotica e simulazione chirurgica per conto dei militari. Non è finita, perché la tua carriera, dopo essere stata frenata e rallentata da un sistema gerarchico e stagnante come quello italiano, negli Stati Uniti appunto si sviluppa molto rapidamente. Ripaghi tu stesso il favore con una logica di restituzione molto americana, ospitando diversi studenti italiani nel tuo laboratorio. Diamo un'informazione allora molto utile: chi può candidarsi per venire da te e come? Tutti gli studenti con una laurea in ingegneria informatica, elettronica, controllo e meccanica, con tanta voglia di cimentarsi con un sistema nuovo e investire un po' di risorse e tempo per svolgere la propria tesi per almeno 6 mesi qui all'Harvard University e al Mass General. I posti sono pochi, in genere facciamo dei colloqui, dopodiché ne scegliamo 3 o 4 per volta. Potete contattarci sul sito www.medicalsim.org. Contattate me direttamente. Attualmente sei pure visiting professor al campus biomedico di Roma e la tua seconda vita da imprenditore ha beneficiato molto del tuo espatrio. Hai fondato la tua prima corporation oltreoceano, seguita da 4 nuovi progetti imprenditoriali. Allora, in quali settori, ma soprattutto quanto è stato semplice negli Stati Uniti ricominciare, trovare finanziatori, partner o più semplicemente persone disposte a investire su di te? I progetti che ho sono in settori molto diversi fra loro e vanno dallo sviluppo di nuove tecnologie per l'advertising, social networking, 3D printing, eccetera. Questo ambiente è diametralmente opposto a quello italiano. Qui si investe sulle idee e sulle persone. Se conquisti la fiducia e l'interesse di un venture capital, vai a meta. Gianluca, come vedi l'Italia dall'estero? Cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. L'Italia è diventata come un'azienda impazzita che ha licenziato il suo dipartimento di ricerca e sviluppo e ha deciso di soffocare i restanti dipendenti con prezzi altissimi che nessuno può permettersi. Secondo me una cosa che si potrebbe fare è ristabilire i fondi per la ricerca, detassare la piccola e media impresa e, se la si deve tassare, casomai dovrebbe essere in base all'occupazione che creano. Giovani talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Gianluca De Novi, 37enne ricercatore e imprenditore negli Stati Uniti. La storia di Gianluca prende le mosse dall'iscrizione alla Facoltà di Ingegneria Elettronica a Bologna. Già durante gli studi si scontra con un ambiente accademico molto limitante, una via crucis di perdite di tempo. Contro tutto e contro tutti, avvia una propria avventura imprenditoriale di successo con progetti nel settore della computer animation e della telemedicina. Successivamente inizia un dottorato, sempre in Italia, trova ad attendere un ambiente universitario ancora più stagnante e ostile. Decide così di concludere il dottorato negli Stati Uniti. In soli 2 anni e mezzo, oltreoceano, ha compiuto un percorso di postdoc, divenendo ricercatore confermato alla Harvard University e al Massachusetts General Hospital. Non solo, continua ad essere imprenditore col pieno appoggio dell'università. Davvero tutto un altro mondo, più meritocratico e competitivo rispetto all'Italia. Ci raggiunge ora in linea Paolo Bonaretti, direttore generale di Aster, consorzio dell'Emilia Romagna, nato per promuovere azioni per lo sviluppo del sistema produttivo regionale per la ricerca industriale e strategica. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio anche lei. Dottor Bonaretti, Gianluca ha scritto a giovanitalenti@radio24.it: dopo il primo semestre negli Stati Uniti ho avuto una prova tangibile che non fossi io ad essere sbagliato, ma era l'ambiente in cui mi ritrovavo ad essere stagnante e a non dare molte opportunità ai giovani. La verità, forse, se vogliamo dirla tutta, è che essere troppo innovativi e dinamici, giocare fuori dalle regole, in Italia non paga. Le chiedo innanzitutto se è corretto, e io le aggiungo: è soffocando i propri innovatori che l'Italia rischia di soffocare alla fine se stessa? Sì, è corretto, proprio perché in Italia ormai è praticamente dal 2001 che non si investe più, non investono più le imprese, non investe più la pubblica amministrazione, si riducono i fondi per la ricerca e stiamo pregiudicando il nostro futuro. Attraverso vari programmi Aster ha supportato 438 progetti di impresa con 200 start-up. Facciamo un passo indietro, ci spiega in breve cos'è Aster e quali sono i suoi obiettivi? Aster è un consorzio che è formato dalle 6 università dell'Emilia Romagna, dalle 7 associazioni imprenditoriali più importanti, dal CNR, dall'Enea e dal governo regionale, e ha come obiettivo quello di sviluppare un ecosistema dell'innovazione fatto appunto di ricerca industriale, innovazione d'impresa e creazione di nuove imprese innovative. Nelle parole di Gianluca abbiamo notato un ambiente universitario molto recalcitrante, per usare un eufemismo, nell'incoraggiare gli studenti più brillanti a sviluppare imprese e progetti innovativi, soprattutto in proprio. Lei riscontra un mondo accademico ancora troppo lontano da quello reale, e se sì, con quali rischi per la crescita del paese? Assolutamente, il mondo accademico era così quando è uscito Gianluca ed è tuttora così in parte, sta cambiando però ed è a macchia di leopardo. Ci sono contesti nel quale si stanno sviluppando delle azioni molto innovative, non c'è più questa visione, diciamo, demoniaca dell'impresa combinata con la ricerca, anzi adesso si stanno cercando di stimolare le iniziative di start-up delle università, e questo lo stanno facendo tutte le università. Insomma, la situazione sta cambiando anche abbastanza rapidamente. Ci contiamo. È di pochi giorni fa, le aggiungo la notizia, che la Camera di Commercio italoamericana ha selezionato Gianluca De Novi tra i 10 professionisti under 40 più promettenti oltreoceano. Anche Aster, nonostante il lavoro importante che portate avanti, non è andata oltre qualche premio e pacca sulla spalla, lo diceva Gianluca prima. Però serve ben altro per trattenere qui i migliori. Avete fatto un errore con lui? Assolutamente sì, penso, nel senso che ovviamente vista come... Però la questione è questa, che noi abbiamo premiato quella idea perché ci sembrava veramente una delle idee più innovative. Il programma che gestivamo era un programma che cercava di finanziare idee innovative realizzabili, e il comitato di valutazione, che era formato da imprenditori e da professori universitari, ovviamente ha ritenuto che questa era molto innovativa ma forse scarsamente realizzabile. Probabilmente nel nostro contesto culturale era anche vero a quell'epoca, e forse anche tuttora, non lo so. Però credo che di questi errori ne stiamo facendo sempre meno. Gianluca, hai una domanda per Paolo Bonaretti? Ci sono alcuni dei miei studenti che hanno usufruito della borsa erogata da Spinner. Ad un certo punto poi Spinner ha smesso di erogare questa borsa dicendo che non c'era un rientro sul territorio. Volete dire che formare dei giovani ingegneri in un ambiente di successo, insegnando loro dei nuovi modelli e dando loro dei nuovi stimoli, non sia un rientro sufficiente sul territorio? Spieghiamo anche cos'è Spinner. Interviene sul capitale umano, cioè sulla possibilità dei giovani di sperimentarsi in progetti di trasferimento tecnologico o di creazione di impresa. In realtà non è che Spinner abbia smesso di erogare le borse. Spinner eroga le borse, ma sono borse che al massimo arrivano un periodo di un anno. Spinner lo continueremo, e le borse continueremo a farle, perché questo è sicuramente uno degli interventi sul capitale umano, sia per la creazione di impresa che per il trasferimento tecnologico, che genera più successo, perché investire sulle persone è sicuramente l'investimento migliore che dal punto di vista del territorio si può fare. E questo conto sia anche l'impegno che prendete in quanto Aster. Grazie a Paolo Bonaretti, direttore generale. E domanda di rito per Gianluca De Novi: Quale consiglio dareste a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie di uscita a un espatrio? Non bisogna essere molto spaventati dal dover ricominciare da qualche altra parte, questo perché porta spesso e volentieri stimoli nuovi. Io incoraggio tutti a farlo, anche con l'idea di ritornare a casa, possibilmente. Quinta puntata dell'iniziativa Giovani Talenti in Europa, che ci terrà compagnia fino al 25 maggio, sostituendo la rubrica Jobs Abroad. Premeremo 6 ascoltatori tra i 18 e i 30 anni che invieranno da adesso fino a domani a mezzanotte una email a concorsoeuropa@radio24.it con una proposta concreta da sottoporre agli europarlamentari. In premio per le migliori 6 proposte un viaggio a Strasburgo all'inizio di luglio. Attenzione, la proposta, anche se inviata via email, dovrà essere contenuta in 140 caratteri al massimo. Il tema della settimana oggi è: inviateci una proposta per un nuovo programma europeo di tirocinio a favore dei giovani. Ripeto, un programma europeo di tirocinio. La casella email è concorsoeuropa@radio24.it. Ricordate di indicare data di nascita, indirizzo e numero telefonico. L'iniziativa Giovani Talenti in Europa è svolta in collaborazione con l'Ufficio di Informazione del Parlamento Europeo di Milano. Tutte le info, i contatti e il regolamento su www.radio24.it. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi vi raccontiamo un esperimento davvero interessante di narrazione collettiva del mondo globale. A farlo, giovani italiani attualmente all'estero attraverso un blog creato per condividere esperienze di scambio al di fuori dei nostri confini. Programmi di studio, lavoro e viaggi. Questo nel menu del blog Migratori. Ce ne parla l'ideatore Giovanni Menozzi. È un blog che nasce nel luglio del 2012 insieme ad un altro amico e nasce con l'idea di fornire informazioni a italiani che vogliono partire all'estero per esperienze di stage, semplici scambi tipo Erasmus o simili o anche normali viaggi. Lo scopo è fornire informazioni e aprire gli orizzonti. Cosa cercano i vostri lettori all'interno del blog? Una via d'uscita dall'Italia o semplicemente aprire gli orizzonti? Non penso una via d'uscita, ma sapere cosa succede nel resto del mondo e quindi avere un quadro più chiaro di cosa si può trovare un'esperienza di scambio che non è detto che poi si concluda rimanendo all'estero. Qual è l'identikit medio di chi collabora? Chi sono questi giovani che scrivono dall'estero? Sono studenti universitari che hanno intrapreso questi programmi di scambio che sono sempre più frequenti e sempre più gente parte in questo tipo di scambi, quindi età media sui 20-23 anni. E cosa raccontano da questo mondo che poi è sempre più globalizzato, in continua evoluzione? Raccontano diverse culture, diverse concezioni di università, diversi tipi di corsi, mondi diversi che seppur in questo mondo globalizzato comunque penso che un'esperienza in India sia molto diversa da un'esperienza in Sud America o un'esperienza in America del Nord, quindi ci danno l'idea di cosa succede nel resto del mondo. E qual è la loro visione dell'Italia dall'estero, da altri continenti? C'è un tratto comune? Dall'estero penso che l'Italia sembri ancora meno senza speranza di quanto si possa pensare dall'Italia, quindi io sono appena tornato da uno scambio in Brasile e penso che comunque in Italia ci siano delle opportunità, però leggendo solo la stampa italiana o la stampa estera che parla di noi, non sembra ci sia un grande futuro. Quando tu dici meno futuro, parli anche in termini di opportunità per un giovane in particolare? Certamente, ad esempio io devo compiere ora lo stage curriculare e dopo 40 domande spedite in Italia e 10 all'estero, quelle da cui ho ricevuto più risposte sono le 10 all'estero, infatti domenica partirò e starò 3 mesi in Sudafrica per lo stage curriculare in un'impresa di e-commerce a Cape Town. Torniamo per chiudere a blog migratori, quali informazioni utili, poi andando un po' nel concreto, trova chi arriva sul blog? Si può aspettare di trovare informazioni riguardo a programmi di scambio sia legati al mondo prettamente universitario, quindi Erasmus o Exchange per chi ad esempio frequenta l'università Bocconi come me, ma anche informazioni legate a periodi di lavoro all'estero. Per maggiori informazioni potete cliccare su www.migra-tori.it. Un motivo per restare o tornare. È stato presentato il progetto Risorse di Sicilia, sviluppato dall'associazione Lavoratorio. Risorse di Sicilia è il primo esperimento in Italia mirato a incentivare i giovani a rimanere sul territorio, evitando la fuga dei cervelli. Nasce dalla volontà di un team di under 30 di sviluppare un sistema integrato di orientamento al lavoro in ambito regionale, rendendo più facile la transizione dallo studio all'impiego. Tutte le info a risorsedisicilia.it.